la prostata, per curarla bisogna trombare. Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Due parenze state lavorando? No, due parenze sparate minchiate, no? Non so quanto ben pagati, ma questo è un affare che non mi riguarda. E tu lo chiami lavoro questo? State facendo un buon lavoro su Capanna, amici miei, eh? Amici della radio, popolo della zanzara! Beh, state facendo veramente, veramente un ottimo lavoro alla segreteria telefonica della Zanzara, state lasciando messaggi pazzeschi contro Capanna, certo, brutto, ce ne sono pochi a favore, diciamo, ce ne sono pochi contro il signor Capanna. La gente è pazza. Che non si vuole tagliare il vitalizio del 10%, del signor Capanna, il quale durante una trasmissione sulla 3 condotta dal signor Scanzi ha detto anche che... Gilletti, come dice lui, con due L, ha fatto un gesto nazistoide buttando il libro per terra, signor Capanna. Capisci che quella scena del libro, cioè quel gesto di tipo nazistoide, perché ci mancava che tirasse fuori l'accendino, gli desse fuoco al libro e dopodiché il quadro era completo. Capanna, è un gesto teatrale. Negli anni 60 Gilletti non avrebbe neanche messo piede dentro la statale, perché lo avremmo preso lui e i suoi vestitini eleganti e disarcionato fuori dalla televisione. Vabbè. fuori dalla statale, dal terzo piano lo avremmo negli anni 60 coi Katanga. Attento, un minuto e 40 secondi per dire a Gilletti, non c'è un minuto e 40 secondi. E anche a Squinzi, che gente come voi negli anni 60 l'avremmo presi a sassate. Ma come a sassate? Scappavate come conigli negli anni 60. Ma non è bello, voi Capanna. Fascistoidi, scappavate come conigli. Ma lei è un disco rotto, è veramente un disco rotto. No, Comunque, tardi, fermi democrazia tutti. Proletaria. Sì, però stia zitto un attimo. Democrazia proletaria. Mi stia zitto un attimo. La prego, Capanna, la prego. Silenzio, parlo io ora. Allora, più tardi sentiremo le nuove dalla segreteria telefonica su Capanna. Vi ricordo il numero e vi ricordo anche che cambieremo nei prossimi giorni tema di discussione. 02 46 52 40 10, segreteria telefonica della Zanzara, 02 46 52 40 10. Salvini dice che a Bruxelles sono peggio di Mussolini, cioè l'Unione Europea è peggio del fascismo. Siccome c'è la polemica fascismo, non fascismo, le figure di Mussolini alla manifesta, io dico, ma che cazzo ce ne frega noi che portano la figura, la foto di Mussolini in una manifestazione? È pieno di manifestazioni dove c'è la foto di Lenin. Cioè, i comunisti sono la stessa cosa, uguale, identica. C'è la falce e martello ovunque, ma di che parliamo? No, di che parli tu? Ma nel nostro paese puoi esporre la faccia su questa cosa, ma dai. Sì, ma è diverso, apologia di reato il fascismo. Sentiamo su questa, ma è passato un sacco ma di è tempo. Ma l'ABC, cambiate la costituzione, storia, per allora. per fortuna è stata rivista. Noi abbiamo avuto il fascismo. È la stessa cosa. Ma noi abbiamo avuto il fascismo, le leggi razziali, non il comunismo. Vergognati di quello che ma dici. Ma non è la stessa cosa che per niente. Stalin, ma vergognati. Io difendo Salvini, Stalin, ma che ma ci mancherebbe. Uguali e peggio a quelli dei nazisti. Dai. C'è qualcuno che vorrebbe instaurare un nuovo regime, altro che Mussolini, altro che fascismo. A Bruxelles c'è ben di peggio rispetto a Mussolini. Non hanno la camicia nera, non usano l'olio di ricino, però usano lo spread, usano la finanza, usano la moneta e stanno facendo più vittime del fascismo. Quindi Bruxelles oggi è più pericolosa di quanto non lo fossero i regimi qualche anno fa. sei decisamente forte, eh? Io non sono d'accordo su questa cosa. Fascismo. È una cazzata pazzesca, caro Matteo, è una cazzata. Capisco la politica, l'enfasi, sì, eccetera. Ma il fascismo è un'altra cosa rispetto all'Unione Europea. No, ma ha detto più vittime. E più vittime, non lo so, facendo il conto, lui dice di quelli che sono morti per la crisi economica provocata dall'euro. Che paragoni del cavolo sono. Anch'io posso dire che è una cazzata. Non è peggio del fascismo, dai, non è peggio del fascismo. Non può essere peggio del fascismo in Unione Europea. Comunque non può essere peggio del fascismo. Meno male, meno male. Ragazzi, va bene la polemica politica, va bene l'enfasi, sì, va bene la retorica. Hashtag basta, dai, ma veramente. Che c'entra, basta. Ma i leghisti sono l'idiota in politica, proprio. Attenzione, attenzione, attenzione, hai detto che sono l'idiota in politica. Sì, che è un bellissimo libro. Devi leggere. È un libro che si chiama L'idiota in politica. Cioè, gli idioti. Scusi, Capanna, adesso perché si intromette sempre nella discussione? No, io volevo parlare con la mia voce normale, veramente. Mi è venuta fuori la voce di Capanna. Il libro si chiama davvero L'idiota in politica. Però il protagonista. Sì, un momento, però, un momento. Sono le 18:39, non ci puoi citare i libri, le 18:39. State zitto un attimo, Capanna. Gente un attimo. Come te veniva presa a cazzo. Sì, d'accordo, però devi stare tranquillo. Scappavi come un coniglio. Sì, d'accordo, però devi stare tranquillo. Saresti perché scappato come un il protagonista di oggi non è Capanna. Il protagonista di oggi si chiama Bonanno. Signor Bonanno, Bonanno. Che ieri, aspetta. Di mostri. E io, no, ma, ragazzi, però stavolta è stato invitato da Formiglia, non è che l'ho invitato sì, io. No, lo so, è lo so, stato lo invitato lo so. Io a Formiglia a Piazza Pulita. Dunque non a mi rompete Dirty le palle. Square, non Dirty mi rompete Square. Le palle su questa cosa qua. Sì. È stato invitato signor no, Formiglia. Lo so, lo so. Il quale si è anche un po' pentito, secondo me, perché dopo alla fine quando è stato applaudito Bonanno, un po' con la coda di paglia ha detto "Mi dissocio dagli applausi". Ma che vuol dire dissocio bravo, dagli applausi? So, perché è serio? Ma non dire cazzate, bravo, secondo me ha commesso un errore. Io sono amico di Corrado no, Formiglia. Si è dissociato da un applauso a un'espressione razzista. Ma scusa, ma il conduttore anche questo deve fare. Vabbè, comunque, bravo Formigli, bravo Formigli. Vabbè, sentiamo bravo la frase Formigli. Di Bonanno, dai, sentiamo la frase di Bonanno, quella sotto accusa. Razzista. I Rom sono la feccia della società. Sentiamo. Dopodiché, allora adesso io ho imparato che i Rom, gli zingari, sono il massimo di quello che c'è in Italia, della correttezza, eccetera, eccetera. Tutti gli altri cosa. No. T'ha detto sono la feccia della società. La feccia della società. No, no, no, no, no, no. Ciao, grazie. Sei un razzista. No, queste affermazioni, sei un razzista perché ma la signora se, no, sono la feccia tu, della società. Scusate, no. E tu sei un razzista. No, il problema razzista. Non è Casa Pound, il problema della Lega sono quelli come te che sei proprio fascista. Quello era Fassina che parlava e si stava confrontando, diciamo così, con una persona che è qui con noi, che fra poco vi presento, però volevo ancora restare su questa cosa di Formigli, conduttore di Piazza Pulita, il quale ha detto che si vergogna degli applausi per le frasi di Bonanno. Bravo, bravo. No, ma io dico no, bravo un cazzo, scusa, perché il problema è uno solo, se tu inviti una persona che poi prende degli applausi su una frase, tante volte è successo anche con frasi forti, tu poi non ti puoi vergognare, uno si vergogna dell'orrido. Degli applausi. Ma no, io mi vergogno, ma che c'è consenso a frasi come questa. Ma è una cosa senza senso. Ma io da conduttore mi vergogno invece. Mi dispiace. Vabbè, mi vergogno. Ma che non c'è bisogno di dire mi vergogno. Ma invece c'è bisogno, è ridicolo, perché dai, io mi vergogno su. Quando sento delle porcherie. Ma che una volta queste cose qui venivano dette sentiamo nel segreto Formigli, delle dai, case. Sbagliato. Ora vengono dette così sventolate. Non ci sono più argini. Non è particolarmente drammatico comunque. I razzisti escono allo scoperto ormai. Formigli, non c'è più dai, la vergogna Formigli, della schifezza che viene Formigli, detto. Una volta fermo, si vergognavano. Ma non stai facendo il comizio. Formigli, dai. Vergognavano delle porcherie che dicevano. Posso dire una cosa? Al di là della discussione, e poi è chiaramente molto viva perché quando si parla di questi temi e magari c'è Bonanno tutti si accendono, posso dire che un applauso a chi dice che gli zingari sono la feccia della società è un applauso di cui io mi vergogno per questo pubblico? Grazie. Mi dispiace se il pubblico, se le persone. Allora, è con noi Diana Pavlovic. Buonasera, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Allora, Parenzo, Diana Pavlovic, come sai, è attrice, portavoce di una fondazione che si chiama Rom Sinti Insieme, era presente ieri sera, anzi è stato il motivo per cui poi si è scatenato questo casino, il fatto che è Rom e il fatto che, insomma, diceva delle cose sui Rom, eccetera, eccetera. Volevo subito sapere da lei, signora Pavlovic, è vero che lei non ha voluto stringere la mano a Bonanno alla fine della trasmissione? Sì, sì, è vero. Ma perché non vuole stringere la mano a Bonanno? Ma non so perché mi ha preso lei, devo stringere la mano a uno che mi dice che sono la feccia della società? Non lo so, di solito alla fine delle trasmissioni uno... Non lo so, veda lei. Non lo so, ma perché non ha stretto... Brava, giusto, le sto chiedendo, perché non ha stretto la mano a Bonanno? Come lo considera? Ma per non sporcargli la mano, perché lui è un esemplare fantastico di un maschio ariano, biondo, alto, con gli occhi azzurri, molto colto e molto intelligente. Io sono solo una sporca zingara e non volevo sporcargli la mano. E questa è una risposta. Questa è una risposta. Essendo lui, considerandosi lui superiore alto, a voi, lei dice: biondo. No, superiore a voi, lei dice: non volevo così imbrattarlo. Ma in realtà poteva imbrattarsi lei, magari, o no? Cioè, le fa schifo? La domanda è questa. Cioè, guardi, padre, ognuno ha un proprio zingaro, ognuno può avere uno zingaro, no? Beh, insomma, per ognuno c'è qualcuno che è uno zingaro e ognuno può essere uno zingaro per qualcuno, no? Quello sicuramente, però le chiedo, le fa schifo come personaggio, buon anno? Bah, mi fa paura. Paura? Quello che esprime. Sì. Sinceramente mi fa schifo, sì. Le fa schifo. Vedi, ha ragione quando dice ognuno di noi può essere nomade. No, ma perché io voglio dire, tu lei, esempio, sei nomade sessuale. Smetti adesso con questi discorsi. Stiamo cercando di fare un discorso serio con la Pablo. Ha ragione, tu la butti, subito su in caciara, no, su questa roba. Stavolta sei tu che la butti in caciara. Stiamo facendo un discorso, sto cercando di capire della signora Pavlovic, che era presente ieri e su cui io spesso non sono d'accordo su tantissime cose. Ma tu, se uno ti offende, gli stringi la mano, no? Io non sto dicendo che ha fatto male. Sto dicendo che anzi ha rotto una liturgia, ha rotto una liturgia. Ma se uno a te ti offende, no? Ma mi fai ti parlare offende un attimo, ma voglio chiedere anche a te, che mi interessa. Ma se a me mi offende, a me non me ne frega niente, a te ma stringo la mano. Ma gli stringi la mano. Ma non lo so, non è importante. Però no, la signora Pavlovic ha detto: siccome mi ha offeso e siccome mi considera la feccia della società, perché devo stringergli la mano? E ha rotto quella che è la liturgia di solito che accade durante le trasmissioni, giusto? Signora Pavlovic, che è quella di stringere la mano a tutti, come se poi alla fine vanno tutti al bar a bere il caffè insieme, giusto? Infatti lui non era un leghista del bar che ha detto che tutti gli zingari rubano, lui è un esponente della Lega europarlamentare che fa parte delle istituzioni più alti che abbiamo in Europa e ha detto una cosa con un linguaggio che si usava nella Germania nazista. E dunque non ha offeso me personalmente, soltanto perché se lo prendo sul personale non mi può offendere un personaggio così. Ma andrebbe messo al bando, secondo lei, espulso dal Parlamento europeo? No, espulso dal Parlamento europeo. Guardi, lui ha offeso 500.000 persone morte nei campi di concentramento per quella ideologia. Ma però, dicendo, scusi, i Rom sono stati considerati la feccia della società e dunque sono stati messi a morte, donne, uomini e bambine. Dunque lui quasi li ha messi a morte, diciamo, ha giustificato atti di violenza nei confronti dei Rom, secondo assolutamente lei? Assolutamente sì, ha giustificato e istigato. Istigato ad atti di violenza nei confronti dei Rom. Riprendiamo da qua, dopo il traffico, mi sembra che parli in maniera molto chiara, signora Pavlovic, ha le sue idee, io le contesterò fra poco, perché le dico che l'espressione feccia della società, seppure può avere, capisco che è molto forte, io conosco Buonanno e secondo me voleva dire una cosa molto semplice, l'avrà detta rispondendo a Fassina, l'avrà detta preso dalla sua enfasi, ma voleva dire una cosa molto semplice, che come al solito, come dice lui spesso, che i Rom spesso rubano e allora lui, e siccome spesso rubano, li considera la feccia della società. Non penso che volesse dire che devono andare nei campi di concentramento, non credo. Io sono sicuro che se mi rivolgo a Diana Pavlovic, attrice, portavoce della Fondazione Rom Sinti Insieme, che qui in qualche modo rappresenta la comunità Rom, e mi rivolgo anche a Parenzo, sono sicuro che se io apro, come aprirò fra poco, una specie di segreteria telefonica, ricordando il numero 46 52 40 10 sull'espressione di Buonanno, che è quella i Rom feccia della società, sono praticamente certo, signora Pavlovic, che arriveranno una marea di messaggi di consenso a Buonanno. Allora, lei che... No, ma è così, sarà terribile. Ma non c'entra, ma è terribile. Però l'applauso che ieri lei ha sentito nella trasmissione Piazza Pulita alle parole di Buonanno non è significativo di qualcosa. Cioè, non è che sbagliano solamente quelli che pensano che i Rom siano tutto il peggio possibile. Magari sbagliate pure voi, o no? Ma mi fa ridere. Ma perché la faccio ridere? Scusa, qualcuno applaude, ragione, se qualcuno applaude la frase e la feccia della società, non è che sono nazisti pure quelli, no? Non saranno nazisti quelli là che ma hanno applaudito. Ma non è che gli istinti del popolo vanno sempre io non ho detto questo, sto ma facendo cosa una... Ma sta dicendo? Cioè, sta secondo... dicendo che esiste una persona normale, sana di mente, che può dire che un intero popolo è la feccia, che un intero popolo è così o cos'ha. No. Una persona sana di mente non lo può dire. Però scusi. O altrimenti fa una strumentalizzazione politica e si cavalca sull'odio delle persone, istiga l'odio delle persone perché è la cosa più facile. E le persone che hanno applaudito ieri che cosa sono? le persone che hanno applaudito ieri Bonanno quando diceva i rom fece della società, e secondo me voleva intendere i rom che rubano, in questo senso. Ovviamente no, poi lui ha due volte ripetuto a me in faccia che voi siete la feccia della società, guardando me, sì. Io certamente non rubo la fedina penale, sì. Pulita, certamente sono più colta di lui, sono più istruita di lui. Beh, questo come fa a dirlo? Ma insomma, basta sentirlo parlare. Abbastanza evidente questo. Ma vabbè ragazzi, però adesso qui cioè, non è che uno può essere... No, io ho capito non che si può difendere l'indifendibile. Però bisogna cominciare a dire che certe cose non si possono più sentire. Ormai si è sdoganato il razzismo ovunque. Per cui è normale dire negro di merda, rom bastardo. Tutto normale, in radio, in televisione. Dice, a me fa schifo. Allora, siccome sta mettiamo roba, che sia una frase, fa schifo. Mettiamo che sia una frase razzista. A me fa schifo. A parte molto che credo che molto, il ex presidente molto, francese Sarkozy si trova a dire racaglie, che significa gentaglia, forse lo usò per le rivolte, per i rom, forse no, no per i rom, no, esatto. Allora esatto, io dico una cosa, ma Paolo, esatto. Dice lei denuncia, se lei pensa che questa frase sia razzista, perché non denuncia Buonanno? Ha denunciato Buonanno stamattina? Quando l'ha fatto? No, l'avvocato ha preparato la causa perché oggi, cosa? Per istigazione all'odio razziale, che è un reato in questo paese, e ancora, noi siamo in processo anche con Borghezio, che sì, per sì, le dichiarazioni tra l'altro che ha fatto sì, a noi, la sua sì. trasmissione. Sì, sì, no, per carità. No, però è stato un errore invitarlo, cioè qualcuno ha detto Formigli non doveva invitare Buonanno. Ha fatto bene o ha fatto male secondo lei? Guardi, ognuno ha la responsabilità di quello che fa. Secondo me, diciamo che secondo me Buonanno esprime molto bene il cuore della Lega, quello che la Lega è, e dunque è un bene che si sa. Cioè, come Salvini, secondo lei, alla fine è come Salvini. Sì, Buonanno forse un po' così, un po' più estremista nelle parole. No, sembra un po' più meno prudente, diciamo, nell'esprimere le proprie opinioni. Però alla fine la pensano uguale. Sì, guardi, cioè, se lei va su internet, fai clicca su Google, cori razzisti, Salvini, napoletani, trova contro i napoletani dei cori razzisti fatti da Salvini. E va bene, una vecchia storia, sì, sì. È certo. Una vecchia storia, no, per adesso Napoli a cercare dei voti. Insomma, vabbè, quello, saranno i napoletani a decidere se votarlo o non votarlo. Quello è politico, ragazzi. Sciaccalaggio. Però scusi, ma Paolo, la domanda che le volevo fare è questa: ma vergognosa, volgare, veramente brutta. Se Salvini dovesse diventare il capo del governo di questo paese, perché ambisce a questo, a governare questo paese, lei che fa? Lei è italiana, no? Sì, io sono italiana. Che cosa fa lei? Cioè, si sentirebbe in pericolo, scapperebbe da questo paese. Lei dice Salvini è praticamente un razzista, la Lega è razzista, giusto? Lei lo dice, pensa che la Lega sia razzista? Sì. Ok, andrebbe messa fuori legge? Perlomeno la Lega non esiste, come una persona può essere razzista. Dico che la Lega è guidata da persone, l'odio delle persone, ma l'essere delle persone istiga l'odio razziale e se la prende vigliacamente con i più deboli. Giocano col razzismo. D'accordo. Dai, se lei pensa questo, pensa che debba essere messa fuori legge come movimento politico. Uno più uno fa due, altrimenti di che stiamo parlando? Cioè, se lei pensa, quelli sono razzisti. Abbiamo una Costituzione che dice che l'apologia al fascismo appunto è un reato, e dunque quelli che stanno in piazza con. Però si possono sciogliere anche i movimenti, eh? Lei dice per razzismo, eccetera, si possono sciogliere pure i movimenti. Dunque, uno dovrebbe essere conseguente. L'apologia al fascismo, che sono simboli, cose. Insomma, esiste una. Io non sono. Lei non metterebbe fuori legge, la Lega? No, io penso che la Lega vada combattuta politicamente, con ragione, sì, con argomenti anche, e con una cultura diversa, insomma, alzare un po' il tiro, diciamo, in questo paese. Non sarebbe male, insomma, che le persone si... E se però le avevo fatto una domanda prima, se Salvini dovesse diventare capo del governo, lei che fa? Lascia l'Italia? Si sentirebbe in pericolo? È una cosa possibile, non è una cosa così assurda, cioè... No, è impossibile, secondo me è impossibile. Beh, in Grecia nessuno avrebbe detto che Tsipras poteva prendere... Però. No, ma Tsipras, non sto dicendo che è la stessa cosa, sto dicendo che nessuno avrebbe detto che Tsipras poteva vincere le elezioni, invece poi ha vinto le elezioni. Non è Alba Dorata, no, però non è Alba Dorata. Non sto facendo nessun paragone. È quello il paragone con l'impossibilità. Le persone come me stanno a Tsipras, capisci? No, no, no, non ho capito, non ha capito. Non stavo paragonando gli estremisti di destra alla sinistra di Tsipras. Sto dicendo semplicemente che era impossibile pensare che Tsipras vincesse le elezioni, magari è impossibile pensare che Salvini le possa vincere. In questo senso, non perché... Intanto ci sono ancora 2-3 anni, quanti anni ci sono? 2018. Insomma, lei si sentirebbe sicura in un paese governato da Salvini o no? No. No, non mi sentirei sicura, cercherei certamente di fare una battaglia politica più forte anche di quella che faccio oggi. E nel caso, diciamo, senta, una, volevo chiedere una cosa su quello che è successo là dove il benzinaio. Lei è così sicura? Cioè, se non ci fosse un rom di mezzo, secondo lei Stacchio, il benzinaio, quello che ha sparato lì, sarebbe già in galera? Non lo so, guardi, io le dico, mi lascia dire questo, quello che penso su questa storia. Io non posso giudicare, diciamo, le azioni emotive delle persone, non posso giudicare il benzinaio, non so cosa sia successo, ma questo lo giudicherà il giudice. Io ho imparato che i rom, gli zingari, sono il massimo di quello che c'è in Italia, della correttezza, eccetera, eccetera. Tutti gli altri no. Sono la feccia della società. La feccia della società. No. Grazie. Sei un razzista. No. Queste affermazioni, sei un razzista, perché la signora, sono la feccia della società. Scusate, no. Tu sei un razzista. No, il problema non è Casa Pound, il problema della Lega sono quelli come te, che sei proprio razzista. Il numero della segreteria telefonica 02-4652-4010, 02-4652-4010. Ha ragione Bonanno? È una frase razzista? Insomma, dite quello che volete su questa roba qui. Io voglio dire solo una cosa alla signora Diana Pavlovic, che è in collegamento con noi. Le avevo fatto una domanda prima, poi c'è stata l'interruzione. Lei ci ha detto prima che ha denunciato per odio razziale Bonanno, che è una frase simile a quella che pronunciavano i nazisti, istiga alla violenza, che Bonanno le fa schifo, eccetera eccetera. Le voglio chiedere la vicenda del benzinaio, no, di Stacchio. Salvini ha addirittura portato la maglietta durante il comizio sabato a Piazza del Popolo. Ora, io posso immaginarmi quello che pensa lei. Al di là delle responsabilità del benzinaio di Stacchio, se non ci fosse di mezzo un rom italiano, questo 41enne che è stato ucciso, secondo lei, il benzinaio a questo punto lo avrebbero già arrestato? Sì o no? Questo non lo so, lo so che se non ci fosse stato un sintomo, un italiano non sinto, sicuramente non ci sarebbero state le magliette e non ci sarebbe stata la strumentalizzazione politica a questi livelli. Questo lo trovo vergognoso e volgare. Beh, altre volte ci sono state manifestazioni, eccetera, anche con italiani coinvolti, i gioiellieri che sono stati arrestati per legittima difesa, per eccesso di legittima difesa, eccetera eccetera. Non ci sono state le magliette dei politici, esponenti dei partiti politici con le magliette che dicono io sto con il benzinaio, e ciò vuol dire bisogna ammazzarli. Questo vuol dire tradotto. No, ma non vuol dire bisogna ammazzarli, dai. Quella maglietta significa che bisogna ammazzare i rom, dice lei. Se uno giustifica un atto di sparatoria, cioè giustifica il fatto che una persona ha messa a morte un'altra persona e sta con quella persona che è messa a morte, ha reagito, cioè secondo lei non è legittima difesa quella là? Non lo so, questo lo deve dire il giudice. Dicendo già che è un'altra cosa, però. Il dato di fatto è che c'è una persona morta, che un'altra persona l'ha sparata. Il giudice deve definire quello che è successo. Sì, quello era un rapinatore, però. Era un rapinatore che a mano armata con una pistola in mano. Noi abbiamo in questo paese la pena di morte? Ma no, non ho detto questo. Facciamo tutti giustizia da soli? Ho detto semplicemente... Uno mi ruba l'orologio, io gli sparo? Se uno va a rapinare con una pistola in mano si può aspettare di crepare, questo dico io. Si può aspettarsi di morire. Italiano o rom che sia. Abbiamo la legge, abbiamo dei magistrati, dei giudici che di solito sono molto bravi, valutano le situazioni che noi non conosciamo, lo conoscono loro perché studiano gli atti, eccetera, eccetera, fanno una sentenza e cercano di fare giustizia. Se noi da soli facciamo giustizia, Questo invece è Far West, non è una società civile. Senta una cosa, questo? Se io dico lo una... capisce questo? Sì, ma questo è chiaro che nessuno può prendere una pistola. Quello aveva il porto d'armi, ha e reagito, dunque, ha reagito. Una maglietta, no? Prima che il giudice faccia la sentenza, prima che si sappia esattamente quello che è successo, io sto con quello che ha ucciso una persona. Vuol dire che giustifico, incoraggio gli atti del genere. No, incoraggio all'autodifesa, certo, incoraggio all'autodifesa, ma l'autodifesa non è proibita in questo paese, Cioè rispondere per legittima difesa non è proibito. Il ragazzo nero a Milano che ha rubato i biscotti e che è stato sparato. Ve lo ricordate? Sì, ma errori e cazzate se ne fanno, signor Pavlovic, se ne fanno moltissime da parte di chiunque. Ma lei sta dicendo che tutti però gli errori e cazzate non possono essere giustificati da una parte e condannati a morte. No, parte, io sto dicendo, se io dico una frase del genere, che gli zingari, i rom rubano molto, sono un razzista, perché la realtà è questa, lei lo sa benissimo, meglio di me, rubano molto. Se la deve prendere con i ladri, con i criminali, zingari o no, allora fa non una cosa dubbio. Giusta. Ma io me la piglio con tutti i criminali, allora non che all'interno della comunità rom ci sia un tasso superiore di, come dire, in proporzione, un tasso superiore di ladri, di gente che vive nell'illegalità, questo è un dato di fatto reale, tutta la polizia d'Italia. Lei lo sa benissimo, no? lei fa anche questo lavoro. Se guarda gli atti di cronaca, c'è gente che fa di tutto, no? Certo. Ci sono quelli che ammazzano mogli, criminali incalliti italiani, figli che ammazzano i genitori, ci sono quelli che stuprano le donne, ci sono politici che rubano, ci sono politici corrotti. Cioè, gli zingari, i rom, lei dice, sono meglio di tanti altri. Ci sono gli zingari, i rom che rubano e ci sono italiani che rubano, che fanno le rapine. Ma questo è la palissiana. Allora, no, però ha ragione. Spiega perché deve esaltare. Non sto esaltando niente. Se tu fai la percentuale di politici che rubano in Parlamento, è superiore a quella dei rom. Se io dico allora, se lei dice gli zingari rubano, gli italiani sono mafiosi e rubano, posso avere uguale identica. Ma la percentuale, quanti sono i politici che rubano? Molti dicono che in Italia c'è la criminalità organizzata come non c'è in nessun altro paese europeo. Cioè, questa è una cosa che si dice ed è vero. Come è vero? Come campani vero, sono tutti camorristi, però. Ma no, gli italiani, io non sto dicendo i rom sono ladri, io sto dicendo che il tasso di illegalità presente all'interno della comunità rom, in particolare campi rom, è elevato. Posso citare un sacco di rapporti di polizia che lo dicono, signore Paolo dice lo sa meglio di me, ma guardi che io lo dico perché bisogna migliorare da questo punto di vista. Poi c'è chi dice che i rom non lavorano e non vogliono lavorare. Secondo lei la colpa di chi è di questa illegalità? Secondo lei della società, di chi è? Ma guardi, è un problema che bisogna affrontare seriamente da persone oneste e serie. E qual è? Allora, se uno vive nei posti che abbiamo visto quando c'è stato lo scandalo, per esempio, no, Roma, mafia capitale, sì, no? Sì. Nasce in quelli posti, vive in quei posti, viene sfruttato dalla gente come Carminati, ma anche dei politici, quelli che ci hanno mangiato. Si investono milioni su di te per 30 anni. Vabbè, d'accordo, ma la colpa. E tu per 30 anni stai nel fango. Della politica. Certo punto, la colpa, certo. Magari ci vogliono stare in quel fango là, Non mi pare che. Ma mi faccia una cortesia. Scusi, ma perché? Ma perché una persona intelligente? Ma perché una famiglia rom, non si cerca una casa come fanno tutti i cittadini italiani? Cioè, non bussano in un'agenzia immobiliare, guardano il giornale e si affittano una casa come tutti? Perché no? Cioè, se uno si vuole integrare, si affitti una casa come si affittano tutti? Oppure lei sostiene che non gliela affittano la casa? Mi spieghi? Prima di tutto perché forse non ha lavoro, forse non ha residenza. Molti italiani non hanno lavoro, e sicuramente non è possibile. Secondo, forse qualcuno non gli dà i documenti con i quali si possono affittare. Ma se sono italiani, i documenti ce li hanno. Ed io veramente capisco, diciamo, il messaggio facile. Non è il messaggio facile, i campi rom sono un abominio, non ci dovrebbero essere. Io sono d'accordo con lei, i campi rom non ci dovrebbero essere. Dovrebbero sparire i campi rom domani mattina. Però perché i rom c'ha ragione. Come tutti gli altri. La Pavlovic, mafia capitale, ha dimostrato che a rubare non erano i rom, erano i politici che rubavano, non i rom. I politici hanno rubato. Conclusione, signor Pavlovic, che i rom non rubano. Ma certo che rubano anche i rom. Ma lì i politici hanno rubato ai rom. I politici hanno rubato ai rom. No, i politici hanno rubato sulle spalle dei rom. I più importanti datori di lavoro in questo paese. Se lei pensa. Come datori di lavoro, 500 persone persone a Roma hanno un contratto firmato perché lavorano per i Rom. I Rom sono... Capito, ma questo è l'abominio, ma questo è l'abominio, questa è la stortura, questa è la stortura, che ci sono delle persone che lavorano per i campi Rom, è una follia totale. I Rom, se si considerano cittadini come tutti gli altri, devono andarsi a cercare il lavoro e la casa come tutti gli altri. No, il problema di uguale, identico. Sono le politiche di assistenza, lei ma la mette che politica di assistenza, ma quale capisce che ci assistenza? Sono milioni e milioni che arrivano in questo paese per la questione Rom. Male. E neanche un euro va... Male, molto male. Molto male, ma non sono molto italiani, male. Non sono Rom, sono italiani. Gli italiani, molto male, sono secondo Rom me. Che sfruttano la questione Rom, li tengono lì perché servono quello nei può, campi. Quello può darsi. Perché, quello può perché darsi. Servono nei campi prima perché qualcuno ci guadagna. C'è gente che secondo ci mangia, non c'è dubbio. Qualcuno ci guadagna anche i voti, capisce? Scusi, un'ultima la Lega cosa. Non esisterebbe. Senza i Rom, non esisterebbe. A metà. Senza i Rom non esisterebbe. Un'altra ultima cosa, secondo lei rubano meno degli altri i Rom? No, sicuramente rubano anche di più degli altri, o uguale agli altri, uguale ovunque ci sia un disagio sociale, dove c'è la gente povera, non istruita. Ma non è solo disagio sociale, però io ho paura che non sia solo sociale. Non è solo disagio sociale, perché non è possibile che si ripetano. Se uno va a guardare l'elenco dei reati commessi, uno gli può venire pure il pensiero che poi alla fine il furto sia un po', come dire, una tradizione, o è razzista dire una cosa di questo tipo, che si viva di illegalità, si viva di furti. Sono un razzista se lo penso? Mi domando, sono un razzista se lo penso? Se pensa che è una questione del DNA, ma o no, della DNA, io non ho detto è DNA. È una questione della posizione. Beh, di cultura, sociale. Di modo di vivere, si vive rubando. È un modo di vivere anche il suo, è un modo di vivere e di pensare. Ma non è la stessa cosa, mica rubo io, mica rubo. Fa qualcosa che può fare, no? Ma ho capito, ma non si può giustificare tutto dicendo non ci sono le possibilità, è una cosa senza senso. Vabbè, comunque. Non finiremo mai di discutere, la ringrazio. Non lo so, guardi, lei si legga qualche libro di sociologia, faccia un po'. Sì, certo, esempio sbagliato, guarda, purtroppo. Arrivederci, hai detto, grazie. Purtroppo grazie. Una cosa sbagliata, l'unica. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Il mondo così fa cagare. Ragazzi, però non c'è solo buon anno, non c'è solo buon anno e i Rom, poi vi ripeto il numero della segreteria telefonica dove cominciare a mandare i vostri messaggi sui Rom, in particolare su quello che ha detto buon anno, una cosa razzista, no, Parenzo, funziona così, il popolo, la gente che si deve esprimere, piace, a te non piace il popolo perché fai lo snob, no, non è che perché vi... sei no, la no, sinistra no, no, snob italiana. No, è una stupidaggine questa che dice, io voglio dire una cosa molto seria, no, non mi piace perché il razzismo sdoganato non mi piace, tutto qua. No, no, hai non già c'è deciso snob. Che il razzismo prima dei giudici, assolutamente. Prima dei giudici, so ha deciso che è razzismo. No, vergogna. So già le porcherie che verranno fuori da quella segreteria chi telefonica. L'ha detto? Chi l'ha detto? So chi già sostiene? Che verranno fuori delle porcherie, perché purtroppo vabbè, c'è una minoranza a cui diamo voce, anche con quella maledetta segreteria, che è maledetta vergognosamente segreteria, razzista. Senti, è ridirate e allora, la parola, no? E alla parola razzismo si può utilizzare, vabbè, allora, perché non fa c'è... vomitare. Vabbè, d'accordo, vabbè. Non c'è solo, non c'è solo buon anno. E non è buonismo il mio, no, non c'è solo buon anno, ma c'è anche... A te non fanno schifo quando usano quei termini contro i Rom? La segreteria... Quali no, termini? No, ma chiedo un parere. Quali termini? Quando quali ci termini? Sono persone che quali dicono termini? Quelle cose che hanno dipende detto qui altre dicono, volte. Dipende cosa dicono, certo. No, no, dipende, ci sono delle cose oggettive. Ci sono oggettive. Due casi clamorosi che sono successi qui alla Zanzara. Quello cosa ti quello fa? È orribile, no? Quello è orribile, sì. Oh, ma buon anno non ha detto male. Che vanno messi ogni nel tanto, vanno male. Messi dentro il tritacarne. Vediamo cosa salta fuori con questi schifosi che telefoneranno. Ma che schifosi, ma non pigliare per il culo quelli che ti ascoltano, va, vergognati. Ma se mi ascolta un razzista gli dovrò dire che è un razzista, mica quelli che telefonano sono una piccola percentuale rispetto a quelli che ascoltano. Vabbè. E soprattutto i pazzi razzisti schifosi, vabbè, che esistono. Vabbè, vuoi fare quello per accreditarti, vuoi fare la figura di quello così. Non mi accredito da nessuno, sono benissimo. Schifosi vabbè. Razzisti, va io bene, lo dico. Va bene. E lo dirò sempre Ornella che sono Vanoni, razzisti. Ornella Vanoni, mi hanno portato in un posto orribile, parla di Napoli, mi hanno portato in un posto orribile, tutto molto caotico. E vabbè, fin qua, oddio, posto orribile. Ma sì, mi piace Napoli, nel bene e soprattutto nel male. Napoli è molto simile al Brasile e anche i napoletani sono simili ai brasiliani. Io lo so perché ho viaggiato tanto. I napoletani, come i brasiliani, sono figli di puttana. Sembra sempre che vogliano fregarti. Figli di puttana che ti vogliono fregare. Posto orribile, figli di puttana che ti vogliono fregare. Poi naturalmente ha rettificato. Come al solito succede, volevo dire simpatiche canaglie, l'ironia dei napoletani, la scaltrezza, la furbizia, cioè l'ha messa in positivo. Qualcuno come sinonimo potrebbe dire simpatiche canaglie. Noi però abbiamo trovato una canzone di della signora Vanoni che ripete esattamente le stesse parole, caro Parenzo. Ti posso assicurare che è così. Fermi tutti, ferma la radio, ferme le macchine. Ornella Vanoni canta una canzone che abbiamo ripescato dall'archivio enorme di Radio 24 e dice le stesse parole contro i napoletani. Che cosa c'è? C'è che i napoletani vogliono fregare te. C'è chi ora non mi importa niente di tutta quella gente. Sono figli di puttana e fregante. Beh, devo dire la verità. Caro Parenzo, questa è una chicca assoluta, eh? È una chicca assoluta, ripescata la zanzara negli archivi. E qualcuno, non credo che ce l'abbia mandato qualcuno tempo fa, però Lavanoni contro i napoletani, addirittura con una canzone. È incredibile, o no? Oh, e sveglia, che fai, ridi? Sorride, comunque, sorride. Abbiamo provato a contattare Lavanoni, senti che succede. Ma che sei morto oggi, dai? Ti scaldi solo per buon anno i cosi, i rom, dai, via. Chi è? Sì, Ornella? Chi è? Salve, qui Radio 24. Volevamo sapere questa cosa di Napoli. Che è successo? Cosa hai detto esattamente? Non ho detto tutto. No, lo so che... tutto. Lo so che hai detto. Ornella... Ma come fate ad avere il mio numero? Perché tutti hanno il mio numero? Ma nessun cantante è chiamato come me. Sì, hai ragione. Ti chiedo, umilmente scusa. Tu sei la nostra icona, però. Ti chiedo umilmente scusa, Ornella. Ancora voglio parlare di Napoli. No, ma giusto per avere una tua rettifica, queste frasi sono vere. Sei pazzo? Beh, no, è una domanda. Siccome hai detto che i napoletani... Senti, per favore. No, ma è una domanda, Ornella. Stamattina io ho risposto a tutti i TG, a tutte le radio, a tutti i giornali, abbiamo rettificato. È un blob che ha messo in giro una persona. Cioè, è tutto falso? È tutto falso. Cioè, è quello che ho detto sui napoletani. Pazzesco, senti, pazzesco. No, per favore. Pazzesco che è tutto falso. Dico, pazzesco questo. Che cosa c'è? C'è che i napoletani gente. Vabbè. Sono figli di puttana e fregante. Beh, sì, ogni tanto succede che fregano a Napoli. Che poi non ha detto una cosa, sì, adesso mi attaccheranno. Ha detto che a Napoli, insomma, bisogna stare accorti quando si va. Questa è la realtà. Non è che ha detto una cosa così incredibile, dai. Cioè, figli di puttana è un altro discorso, ha sbagliato. Però a Napoli tentano di fregarti, non mi pare una cosa così straordinaria, no? In tante altre parti d'Italia tentano di fregarti. Però, diciamo, a Napoli uno va, di solito, i turisti americani vanno a Napoli e ci sono, no, pagine piene di consigli ai turisti americani, il porto di Napoli, dove andare, dove non andare, eccetera. Poi ti possono fregare pure a Milano alla stazione centrale, appunto, per appunto, carità. Appunto. Stefano da Milano, vai, Stefano. Giuseppe, ciao. Dimmi. Volevo parlare sui Rom, ma non ho l'immunità parlamentare, allora vorrei... No, vai tranquillo sui Rom, no, ragazzi, no, non no, sentitevi legati, altrimenti chiamate la segreteria 0246 52 40 10. Tritacarne, ma mi sembra troppo... Era una battuta sul tritacarne, ma era troppo forte, e dopo mi denunciano e io non posso... Ma dare. Non devi denunciare, non ti denuncia nessuno, vai tranquillo, di quello che pensi, vabbè. No, io volevo sapere, se messi del tritacarne insieme ai maiali, che tipi di salumi verrebbero fuori? Cioè, dimmi se questo si può tollerare. Non ho capito, adesso. Scusa. Ho detto, se metterli nel tritacarne insieme ai maiali, che tipo di salumi verrebbero fuori? Cioè, questo si può tollerare, secondo no, te? No, ma questa qua, adesso, ovviamente, Stefano, adesso, no, stai calmo. Questo fa schifo. Ma non è una battuta, fa schifo, non si può tollerare. Parenzo, voglio dirti una cosa. Ma erano cose che una volta uno si vergognava a dire, lo diceva, ma neanche al bar lo diceva, Parenzo, una puttanata farti, simile. Posso, Parenzo, no, io con lei non domanda. Parlo, perché fa schifo. Fa scusi, schifo poter dire. Non c'è, lascialo parlare. Schifo, vabbè, una roba non, così. Non fare la sceneggiata. No, mi fa schifo. E non gli parli. Fa schifo metterlo in onda e continuare a tenerlo. La faccio a te, Giuseppe. Stai calmo, stai tranquillo. No, io mando in onda calmo, chi voglio. Stai e a me fa schifo. Io non parlo. L'hai detto, non parlare. Giuseppe, posso farti una domanda? Assumete la responsabilità. Fa schifo. Ma responsabilità di chi? Ma stai tranquillo, stai calmo. Stai calmo. È una porcheria. Sei una porcheria. Stefano, che ti viene? Io voglio esplorare la testa delle persone. Non mi rompere i coglioni. Questa è merda. Stefano, oh, ma Stai tranquillo, fammi parlare con Stefano. È merda questa Stefano, roba. Che cosa è successo? Non ho capito, spiegami. Giuseppe, volevo, scusami, era proprio fare, era, io non sono razzista, volevo dire tono scherzoso, ma non l'ha capita. Volevo sapere una cosa. No, aspettate, il tono scherzoso è una cosa. Quando tu dici che anche perfino un salame non verrebbe fatto bene, non verrebbe buono con i rom, mettendo nel tritacarne i rom, beh, caro Stefano, dici una cosa oggettivamente grave. Adesso Parenzo la mette in caciara come al solito. Però no, io non dico più niente. No, la metti in caciara. Io ti dico che ti rendi conto di dire una cosa grave o no, Stefano? Sì, ti rendi conto? Conto. E perché la dici allora? Perché mi è venuta così. Perché ti è venuta così? Per buttarla sul ridere, così incacciare. Sì, ma non è una battuta qualunque. Quando tu dici che i rom possono produrre del salame pure marcio, pure cattivo, significa che i rom vengono trucidati, vengono ammazzati per fare no, il salame. Ma quello, ma no, ma sì, ho capito. Ma allora ammazzano anche i pulcini, come hai detto lei l'altra volta, scarpate. Cosa vuol dire quello? Ma vabbè, non è la stessa cosa ammazzare i pulcini. Ho capito, ma ammazzare i pulcini e i rom è mica lo stesso, amico mio. Secondo te io posso pensare di ammazzare un sacco di gente lo pensa, un sacco di gente lo pensa. Non mi stupisco di nulla. Una cosa, Giuseppe, vorrei chiedere, visto che lui non mi risponde, vorrei chiedergli se fossero entrati in sinagoga come sono entrati in una chiesa cristiana, sarebbe stato così tollerante? Cosa? In sinagoga chi? Non ho capito. L'altro giorno, quando sono entrati quel gruppo a Roma in una chiesa cristiana, in una chiesa cattolica, sì. Lui sarebbe stato così tollerante se fossero entrati? Non lo so, chiedila a lui se ti risponde. E non mi vuole rispondere. Rispondi a questo signore? No, non parlo con questo schifo. Va bene, no, allora. Ha detto semplicemente. No, questo schifo non parla. Non parla con te, Stefano. Ecco, allora senti, digli la terza cosa, poi la smettiamo. Di smettere di praticare l'onanismo, perché dopo le occhiaie diventa cieco. Dice che pratichi l'onanismo. Cioè che non fai le parlo con la carne di maiale. Io. Va bene, Stefano, ciao. Va bene, ciao. Allora, Abdul Bologna, vai Abdul. Grande ciao, Abdul. Ciao Cruciani, ciao. Dimmi Abdul, da dove chiami? Da Bologna però che sei? Marocchino, tunisino, che no, sei? No, no, io sono un afro-italiano. Che vuol dire afro-italiano? Abbi pazienza. Cioè, di origine, no, che sei? Di dove sei? Sono del Senegal. Senegal, va, ma tutti dal Senegal ci chiamano. Cittadinanza italiana però. Ma non lo so se ha cittadinanza italiana, non è importante. Nera. Sei clandestino o sei normale? Sei regolare? Com'è? Sei clandestino o sei regolare? Ma regolarissimo, ma regolarissimo. Io sono un afro italiano. Un afro italiano, ma che sei? Non è No, sono senegalese. Sei senegalese, benissimo. Regolare, tutto normale, sì, lavoratore, non sei clandestino. Pago le tasse fino all'ultimo. Permesso di soggiorno e tutto a posto, vabbè, allora? Tutto a posto, Cruciani. Allora, ti voglio dire questo. Intanto io conosco dei ragazzi, alcuni rom che lavorano, sì, poi? Che lavorano regolarmente e pagano il tasso come te, esattamente come te, conosco alcuni. Vabbè, sì, ma chi l'ha escluso? Chi l'ha detto che non succede? Ma ci sono anche dei pugili rom famosissimi, dei pugili italiani, rom di origine sinti. Normale, sicuramente persone di origine rom e sinti che pagano le tasse regolari, sì, certo, ci saranno. Secondo me sono una minoranza nettissima. Però lo so, vabbè. Allora, dicevo questo però, Cruciani, cioè, porca miseria, ma con tutti i problemi che ci sono in questo paese, ma secondo te, cioè il male di questo paese sono i rom? Per carità, ma chi ha detto che è il male del paese? Come? Chi ha detto? Adesso, il tuo amico Khalid Chauki, che dice alla Zanzara si parla di mettere nel tritacarne rom e maiali, Giuseppe Cruciani, Stogana, peggiori di Gurgiti razzisti. Posso dire la verità che scrive delle minchiate enormi. No, qui Ho reclutato nessuno per una cosa del genere. Questo ha semplicemente chiamato e ha detto la sua, punto e basta. Ha detto una coglionata, una cazzata che io ho esplorato e che ho fatto correggere, perché le persone vanno ascoltate tutte. No, io le persone vanno ascoltate tutte, chiaro. Come ma stai quello. Tranquillo, gestisco io che so gestire meglio di te. Ma che vuol dire Abdul? Ascoltare? Io non sono d'accordo con l'ascoltare tutti. E invece io quello ascolto per tutti. Me non è tutto. Io invece ascolto la penso tutti. Diversamente. Vabbè, pazienza, Abdul. Infatti te lo dico però. Sì. Quello è merda, detto con parole eleganti. Vabbè, tanto hai bisogno di staccarti, per me, di distanziarti, quella dai. È merda. Va bene, abbiamo capito bene. Merda. Così si capisce con le parole che capiscono. Così capiscono meglio con questo linguaggio crudo. Io dicevo questo, a parte non solo Certo, perché io ascolto sempre, cioè da mesi che parlate solo di Roma. Ma non è vero, ragazzi. Non è vero. No, esiste un problema che riguarda i Roma in Italia? Sì, non è il problema principale per l'Italia? No, certamente non è il problema principale per l'Italia. No, ma esiste, problema, sì, esiste, punto. Esiste un problema nelle singole comunità, esiste un problema nei paesi, esiste un problema nelle città, con la gente che ci abita accanto, esiste un problema che riguarda i Roma e l'illegalità. Esiste, non lo vuoi ammettere che esiste? Pazienza, ma esiste. Ma non lo so di chi è la colpa. Alcuni dicono che è colpa dei Rom, altri dicono, secondo me in maniera assurda, che è colpa della mancanza di politiche che gli danno il lavoro e di altre puttanate del genere. Secondo me è un problema che esiste, quello dei Rom, e va risolto con la legge e con l'applicazione della legge, sempre. Cruciani, se mi lasci parlare, praticamente i Rom non esistono solo in Italia. Ma perché gli altri paesi? Ma in Francia hanno fatto un inferno contro i Roma, peggio che in Italia. No, non dire stronzate, dai, su. Semplicemente perché Cruciani, la colpa è anche tua, perché da 20 anni che tu, colpa mia, come te, ma voti dei politici. Ma che c'entra? Io ho votato mille cose diverse. Come la Lega, Abdul, io ho votato 40 cose diverse, per cui non dire stronzate, dai, su, non sai quello che dici. Sempre politici corrotti, incompetenti. Ma che vuol dire ho votato politici corrotti? Avrò votato pure politici corrotti, non lo so, nel calderone qualche corrotto sarà scappato fuori. Allora, però vai. Ma perché tu chi hai votato, per esempio, all'ultima elezione? Abdul, chi hai votato alle ultime elezioni? Spiegami. Renzi, io ho votato. Allora, io potrei dire la stessa cosa, che il PD è pieno di corrotti. Ma di che parliamo? No, dai, su. No, va benissimo, sì, infatti. E allora, dai. Però, ciao, Abdul, ciao. Silenzio, senza interruzioni. Quando è che ha scoperto di avere questo potere? Da quando la guido. La mia percezione è come amplificata. Vedo cose che prima mi sfuggivano. In più affronto ogni sfida con un controllo che non credevo di avere. È strano però, quando scendo dall'auto, tutto torna normale. Nuova Subaru Outback, con sistema EyeSight e trazione simmetrica all-wheel drive di serie. Ora vedere è potere. Scoprila negli showroom Subaru. EyeSight è un sistema di supporto alla guida. Consultare il manuale per caratteristiche tecniche e limitazioni. La Zanzara. Ancora a casa. Beh, c'è un grande ritorno alla Zanzara, caro Parenzo, grande ritorno alla Zanzara. Stacchiamoci un po' dalla questione Rom, che mi sono fatto una testa così, la testa che mi scoppia. No, poi ci torniamo, naturalmente, ascoltatori, segreterie telefoniche, eccetera. Amico mio, io voglia. Di quello dissento, sì, dissenti, tu dissenti. Non quello. Sono tu. D'accordo con la segreteria telefonica Benica, razzista. Benissimo, ma non c'è nessuna segreteria telefonica razzista. Allora, facciamo così, se c'è un messaggio come quello che abbiamo sentito, non lo mandi in onda. Ma no, questo vediamo. Ma guarda, io che il razzismo, il razzismo però c'è un limite a cui dar voce. Banche ascoltato, e bisogna capire chi è razzista. Già e anche capire chi è razzista. E casomai se le leggi lo prevedono, non è vero. Se le leggi peggio ancora. Ma meglio scoprirlo allora che tenerlo ancora. Nascosto, secondo ma te. Ma lo sappiamo che c'è, ma un matto come quello, vabbè, che non si vergogna di se stesso. Ma non c'è nulla da capire. Ma come no? L'ho fatto ragionare. Certo, ma chi è ragionare? Non si è vergognato di se stesso, di quello che ha detto. Ne pagherà le conseguenze se è il caso. E io continuerò a dire che mi fa schifo sentirlo. Tu non vuoi sentire, benissimo. No, non sono d'accordo a mandare in onda fino a quel punto. Andiamo con Maurizio Paniz. Buonasera, come andiamo, caro Maurizio? Buonasera, tutto bene Beppe? Tutto bene. Ex parlamentare del PDL, Juventino. Non c'era ancora Forza Italia. Grande Juventino, deluso un po' da ieri, immagino. Abbiamo sempre 9 punti di vantaggio, mi pare che in questo momento possiamo stare tranquilli. Più siamo semifinalisti di Coppa Italia, siamo in corsa sulla Champions, credo che sarebbe indelicato non essere... Vabbè, però un po' di delusione, ieri vittoria in pugno, 11 contro 10, vi siete fatti pareggiare. Qualche rabbia l'aveva provata anche lei, un minimo, un moto di rabbia nella sua compostezza, no? O no? L'ho provato ieri, l'ho provato a Cesena. Un vaffa ogni tanto scappa davanti alla televisione, o no? No, non occorre dire mai, questo. Mai vaffa. Almeno... Basta tenerselo dentro. Allora, Maurizio Paniz, perché lo chiamiamo? Ci sarà un motivo, perché la politica l'ha abbandonata, si è pentito di abbandonato oppure gliel'hanno fatta abbandonare? Perché cacciata, lei non l'hanno fatta ricandidare oppure è successo qualcos'altro? Guardi, nella vita le esperienze vanno raccolte, sono esperienze importanti. Io ho vissuto 3 legislature da parlamentare, sono grato a chi mi ha consentito questa opportunità, però sono molto molto sereno adesso che è conclusa la cosa. Vabbè, ho capito, ma la domanda era un'altra. Anche perché guadagna molto di più. Guadagna di più lei sicuramente. Beh, insomma, guadagno di più. Sicuro. In conformità all'impegno che ci ho sempre messo e che continuo a metterci. Ma è uno degli avvocati più pagati d'Italia, dai, lo sappiamo. È uno però dei più lei, pagati, quando, quando ha lasciato il Parlamento, è più ricco. Su questo, beh, più, certo. O no? Beh, questo mi pare abbastanza oggettivo. È oggettivo. Scusa, beh, non c'è dubbio. Scusi, signor Panizzi, lei difende 60 ex consiglieri regionali del Veneto, forse anche quelli friulani adesso, non lo so perché stanno facendo casino anche loro, i quali non vogliono, adesso non entriamo dopo in cose tecniche, non vogliono ridursi il vitalizio. Si tratta di una riduzione minima, secondo me minima, e temporanea, cioè fino al 2017 per 2 anni per motivi di solidarietà. Allora, io voglio dire una cosa, signor Panizzi, al di là del fatto che... caro Maurizio, dal punto di vista dei ricorsi magari c'è qualcuno che vi darà ragione perché la regione non può, eccetera eccetera, come si fa ad opporsi al taglio dei vitalizi che in fin dei conti sono un privilegio, o no? Allora, mettiamo le cose in fila. Prima considerazione: io sono molto grato ai 60 ex consiglieri che mi hanno incaricato, perché si tratta di persone che hanno sviluppato un'attività politica in modo serio, in partiti. Il fatto che abbiano scelto me come loro professionista mi gratifica, e di questo io non posso non essere d'accordo. Seconda considerazione: il problema è di vedere se una norma è conforme ad altre norme o meno. In particolare, se il provvedimento emesso dalla Regione del Veneto è conforme alle leggi dello Stato. Beh, ma quello, se è conforme, quello è scontato. Se, no, scontato non c'è proprio nulla. No, ma è scontato. Ma perché uno deve fare ricorso contro una roba che in fin dei conti può essere anche accettata? Cioè un taglio minimo del vitalizio, che è comunque un privilegio, perché è in uno Stato di diritto. In uno Stato di diritto le regole sono quelle che vanno rispettate. Cioè, secondo lei sono diritti acquisiti che non vanno toccati? Non è questione di diritti acquisiti, è questione di rispettare le regole. Quando una regione fa un provvedimento, dal mio punto di vista, deve rispettare le regole dello Stato. Se non rispetta le regole dello ma Stato... Questo, d'accordo. Sì, ma se lo Stato cambia le regole, però... Cioè, se lo Stato cambia, evidentemente... Non le ha cambiate in questo caso. E se lo cioè, Stato secondo lei la Regione Veneto è fuori legge con questo provvedimento? Secondo me questo provvedimento è sbagliato. Cioè, ma è fuori legge? Non è rispettoso delle regole dello Stato italiano. Ma perché uno non si arrende, non dico di lei che non c'entra niente, ma questi qua non si arrendono, dicono vabbè, diamo un contributo di solidarietà perché in fin dei conti siamo dei privilegiati. Lei non considera dei privilegiati questi signori? Questi 60 ex consiglieri regionali che non vogliono rinunciare per 2 anni ad avere un vitalizio un po' meno sostanzioso? Guardi, le faccio un unico esempio, tanto per essere molto chiaro. Nel testo non c'è nemmeno scritto qual è la motivazione per la quale viene ridotto. Beh, i risparmi, penso, no? I risparmi. Ma basta, bisogna scriverlo. Se uno non lo scrive, non lo sa. Ma al di là delle cose formali... No, ma scusi, non sono cose formali, sono cose sostanziali in uno Stato di diritto. Lo Stato di diritto si basa su regole, su leggi. Le leggi vanno rispettate da tutti. Se chi fa un provvedimento lo fa conforme alla legge, il provvedimento viene rispettato e chi lo subisce non dice niente. Se il provvedimento è fatto in maniera conforme alla legge, quello lo vedrà il giudice nei vostri ricorsi. Basta. Quello che pensa Maurizio, d'accordo, quello che però pensa Maurizio Panizz, che è stato parlamentare eccetera, è che in fin dei conti questi vitalizi sono un diritto acquisito e vanno mantenuti così come sono, giusto? Io penso che tutti i provvedimenti che sono stati emessi e che sono conformi alle regole Stato debbono essere salvaguardati. Il vitalizio è conforme alle regole dello Stato. Fin tanto che lo Stato non interviene e non lo modifica, deve essere dato. Punto. Però ho capito, il problema è che se lo fa la regione sul vitalizio... Non capisco perché non si debba accettare una cosa. Lei non lo considera un privilegio? Hanno versato dei soldi che noi non ci... Non, soldi nostri. Scusa Beppe, scusa. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Qualcuno pensa di eliminarli, poi adesso non se ne parla più da giorni, perché queste cose vanno a ondate. Prima c'è una campagna, il presidente della Camera, il presidente del Senato dicono basta, bisogna togliere i vitalizi ai condannati, poi tutto si arena nella burocrazia e nelle difficoltà legislative. In Italia io non dico che sia giusto o sbagliato, io dico semplicemente che se il presidente della Camera e il presidente del Senato dicono che bisogna togliere i vitalizi ai condannati per mafia o per altri reati eccetera, poi tutto lo dicono i principali partiti eccetera, non è che tutto poi si può arenare, si può fermare. tremare davanti alla burocrazia, davanti al fatto che in Italia non si può toccare nulla, perché ci sono i famosi diritti acquisiti. Quando si vuole però si interviene anche sul pregresso e sui cosiddetti diritti acquisiti, quando si tratta invece di certe persone non si interviene. Comunque, rivogliamo ricordare, Parenzo, chi ha intercettato la zanzara su questa vicenda della, dei vitalizi ai condannati? Beh, iniziamo con Sgarbone, va, condannato come sapete per truffa eccetera eccetera. Sgarbone come ha reagito? Se lo vogliono togliere a me ne prenderò atto sereno, non ne ho bisogno e l'ho utilizzato in questi anni canalizzando le mie figlie. Delle condanne come quelle di Cavan hanno senso perché ha rubato. Io non ho preso una lira, porca puttana! Questa storia così non ripetere si basa su una persona che era assente senza assenso. Ho capito, però non ho preso una lira. Forma... Ma il che va pulato andrebbe messo all'ergastolo. Questo Sgarbi, poi c'era Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto, con una condanna a 4 anni. Per concorso esterno in associazione mafiosa. Signor Cito prende un vitalizio, credo circa 2000 e rotti euro. Guardati, quello che dicono loro se ne è fatto un cazzo, perché dopo 25 anni hanno detto che sono innocente, quindi che non mi rompessero i coglioni. Questa è la reazione del signor Cito. Il signor Cito, che attacca anche il presidente della Camera, il presidente del Senato. Senti, signor Cito. Ce lo dice anche, scusi, il presidente del Senato, il presidente della Camera, insomma, si ma sta... loro possono dire quello che vogliono. Un vitalizio che uno lo prende da 10 anni, da oltre 10 anni e tutto il resto, loro che cosa togli? Che sei, un padre eterno che tu dici oggi dovete morire, non ho capito. Chi cazzo sei? Cirino Pomicino, aggressione alle famiglie. È un'aggressione alle famiglie perché il trattamento previdenziale è per la famiglia. So soltanto che il vitalizio altro non è che una forma pensionistica minore, perché non c'ha la tredicesima, non c'ha mille altre cose. Io sono contento che tolgono questo vitalizio, ma è un'aggressione alle famiglie, non ai parlamentari. Anche le vedove dei parlamentari vengono tolte. E poi da ultimo, caro Parenzo, l'ex sindaco di Milano Pillitteri. Ricordate Pillitteri, no? Come no? Ex socialista, è stato anche in Parlamento, il quale dice che senza i 2.900-3.000 euro di vitalizio non arriverebbe alla fine del mese. Se ti levano a te questi 3.000 euro al mese che prendi, credo, di vitalizio, no? Per avere fatto 2009, diciamo 2009 per l'esattezza. 2009, la cosa ti cambia la vita, sì, naturalmente. Cioè Beh sì, un po' sì, certo. Non è che muoio, per la verità. Però la vita cambia. Hai difficoltà a chiudere il mese, ad arrivare alla fine del mese, o no? Beh sì, un po' sì. Pillitteri, Volevo chiedere a Maurizio Panizzi, che è in collegamento con noi, che è avvocato, è stato parlamentare per il PDL, è quello che pronunciò la famosa frase in Parlamento sulla nipote di Mubarak, su Ruby. Adesso gli chiederò qualcosa, perché si è riaperta la vicenda Ruby, abbiamo scoperto che in realtà vive praticamente da nababba, come un nababbo, anzi. Non come si la nipote di Mubarak, come vivrebbe la nipote come di Mubarak? No, ma è morto Mubarak però. Ho detto come vivrebbe se fosse veramente la nipote di Mubarak. Sì, effettivamente questo è vero. Vive così. Allora, voglio chiedere a Panizzi una parola sulla questione dei condannati. Allora, secondo Panizzi, che difende 60 parlamentari, ex parlamentari del Veneto, i quali non vogliono ridursi il vitalizio perché dicono che la Regione Veneto non può intervenire perché è contro la legge, l'avete sentito poco fa, è giusto o no togliere i vitalizi ai condannati? È giusto che venga fatta una legge che prevede questa eliminazione. No, vabbè, d'accordo, però Panizzi, non mi sia così formale, però secondo lei è formale? I diritti vanno tolti con una legge. Il Parlamento ha tutte le possibilità, faccia una legge, intervenga in questa materia. Ma secondo lei è incostituzionale, è costituzionale, si può fare, è ingiusto, e nei confronti di chi, è stato in Parlamento ed è stato condannato per reati contro lo Stato, è ingiusto togliere il vitalizio perché in fondo altri condannati che non sono parlamentari ce l'hanno? Beh, io voglio capire quello che pensa lei, non le cose formali. Glielo sto dicendo in maniera molto chiara. No, ma lei la farebbe intanto, questa legge? Questo è il punto. Io voterei questa legge, se fossi in Parlamento voterei questa legge. Cioè lei è a favore di togliere il vitalizio ai condannati, ma tutti i condannati? Sì. Certamente non per reati che non abbiano alcuna concatenazione con la vita politica. Se io vengo condannato perché ho, che ne so, cagionato una lesione per un incidente stradale, magari una lesione lievissima a 5 giorni, penso che non sia giusto. Che ne so, per finanziamento illecito lo toglierebbe il vitalizio? Sì, per il finanziamento illecito lo toglierei, per tutti i reati contro la pubblica amministrazione e per tutti i reati che prevedano delle pene particolarmente significative. Possiamo scegliere che siano 4 anni, che siano 5, che siano 3, o comunque tutti i reati che prevedano determinate. Però scusi, lei, tornando alla questione del vitalizio agli ex consiglieri regionali, lei considera il vitalizio, se non ho letto male, una specie di giusto contributo al reinserimento nella società, è così? No, lo considero qualche cosa di più. Cioè? Lo considero un trattamento pensionistico per persone che hanno dedicato moltissimi anni della loro vita agli altri attraverso l'attività politica. Se la politica viene sviluppata in maniera seria, io credo che sia giusto, come qualsiasi altra attività che alla stessa consegue un trattamento pensionistico. Però scusi Panitz, il problema è molto semplice. Questo trattamento pensionistico spesso è allucinante rispetto a quello dei semplici cittadini. Sì. Cioè, c'è un altro discorso. Beh, no, ma è il discorso, se uno vuole ridurre il vitalizio significa che vuole intervenire sulla quantità di soldi che è abnorme rispetto a quella, cioè i versamenti li hanno decisi, ma li hanno decisi i politici stessi. Benissimo, facciano una legge in qualsiasi momento senza nessuna difficoltà, con la quale stabiliscono che da oggi in avanti i trattamenti sono totalmente diversificati. Queste sono le regole di una, cioè, però non si può intervenire sul progresso, dice lei, sui diritti acquisiti, ma non si può intervenire. L'ha detto la Corte Costituzionale mese fa. La Corte Costituzionale, che è il massimo organo italiano in materia di giustizia, qualche mese fa ha bocciato il provvedimento dello Stato che voleva intervenire sulle cosiddette pensioni d'oro. Lo ha bocciato perché ha detto le regole si stabiliscono da oggi in avanti, non da ieri o da ieri l'altro. Questo è un principio di uno Stato di diritto e questo principio deve essere, secondo me, rispettato. Punto. Sì. Non ci sono discussioni. Se vogliamo fare leggi che eliminino, che riducano, bisogna, che rendano, basta intervenire. Il Parlamento ha tutti i poteri. Dici, in questo momento non si può, nessuna regione si può arrogare il diritto di ridurre i vitalizi, giusto? No, non ho detto questo. Lo deve fare rispettando le regole dello Stato, per esempio dicendo che si tratta di un intervento occasionale, dicendo che è motivato da una serie di esigenze particolari del nostro Stato. Se vengono rispettati i criteri che la Corte Costituzionale ha dato per intervenire sia sulle pensioni, sia sui vitalizi, sia sugli stipendi stessi, secondo lei non può farlo, però? Ho detto che se in questo momento non può farlo. Basta rispettare le regole. La Costituzionale ha detto che si può intervenire non solo sui vitalizi, ma anche sulle pensioni e anche sugli stessi stipendi, purché ci siano due criteri. Il criterio della temporaneità. Ma però entriamo nel dettaglio, perché sennò è un casino. No, non è un dettaglio, è una cosa semplicissima. Criterio della temporaneità, cioè l'intervento deve essere temporaneo, limitato nel tempo. Seconda cosa, l'intervento deve essere determinato da occasionali importanti esigenze dello Stato. Devono essere esplicate, vengano esplicate e allora i provvedimenti possono avere tutta la loro consistenza. Senta Panitz, ma si è pentito anni dopo di quell'affermazione sulla nipote di Mubarak, visto anche quello che sta succedendo? Lei sa che cosa io ho detto? Sì, lo ricordo perfettamente. Certo. Allora glielo ricordo io. Ho detto che Berlusconi era perfettamente consapevole che quella ragazza fosse. Sa chi mi ha dato ragione? Chi le ha dato ragione? Chi? La Corte d'Appello di Milano. La Corte d'Appello di Milano, che ha assolto totalmente. Si ha detto che lui era, poteva essere. In quel momento pensava fosse. Ha riconosciuto perfettamente l'esattezza delle parole che io avevo detto. Insomma, non le pare. Oggi come oggi, scusi. Meglio che siamo chiari su questo. Oggi come oggi io ho l'avallo dell'autorità giudiziaria che ha confermato esattamente che avevo visto le carte, le avevo lette e avevo risposto in conformità alle carte del processo. E per me la decisione della Corte d'Appello di Milano è stata una soddisfazione. Se l'è appesa in camera da letto, che ha fatto? Non ho bisogno di appendermela in camera da letto, ce l'ho in testa e ce l'hanno in testa tutti coloro che hanno. Ma non le pare strano che questa ragazza viva con tantissimi soldi? Come fa a vivere? Questo è un altro discorso che non deve fare a me. Io non ho la più pallida idea, non l'ho mai vista questa ragazza. Ma che idea si è fatto lei? Cioè, come fa questa Com'è possibile ragazza, che questa ragazza viva al di sopra dei... Non di famiglia ricchissima, diciamo. Esatto. Anzi. Questo lo deve chiedere agli inquirenti. No, ma l'idea che si è fatto lei da avvocato difensore... No, scusi, ognuno deve fare la sua parte. Io quando ho parlato con la cognizione di causa perché conoscevo esattamente gli atti processuali. Cioè aveva ragione lei, quando ha detto quella cosa aveva ragione lei. Al 100%. Aveva ragione oggi lei al 100%. Oggi. Senta, un'ultima cosa le voglio chiedere. Oggi come oggi, l'autorità inquirente vada a verificare come vive questa ragazza e da dove prende i soldi. Verifichi. Lo Stato ha tutti i poteri. Lei lo auspica che lo Stato lo verifichi allora? Beh, io, cioè, lo spero. Scusi un attimo, ma gli fa un piccolo sconto Emilio Fede, adesso è diventato il suo avvocato per la vicenda cosa, oppure no? Oppure lo difende gratis? Intanto pensiamo a vincere. Fino adesso abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, speriamo di poterli migliorare ulteriormente. D'accordo. Alla fine poi faremo i conti. Ma la parcella gliela fa però alla fine o no? Il mio mestiere è fare l'avvocato. Che lo sa che lui è andato in causa o comunque ha un contenzioso con l'avvocato Lecci là per la sua precedente. Perfettamente la situazione, ma non mi faccia dire qual è il mio pensiero su quella vicenda. No, come no, glielo faccio dire, come no? Certo, no, che non lo dico, non lo dice. Non è, nei rapporti tra professionista e cliente. Chi ha sbagliato? Chi ha sbagliato secondo lei? Guardi, da me non otterrà una sola parola sull'argomento. Io le dico che il mio compito di avvocato è quello di vincere, di cercare di vincere. Ma anche con Mediaset? Anche con Mediaset? Non lo assisto io in quella vicenda. Non assiste lei. Su quello non posso dirle assolutamente niente. In quelle dove lo assisto io posso dire esattamente come stanno le cose. Vabbè. Posso dire che ho la convinzione di poter ottenere un risultato positivo. In parte già ottenuto e vedremo se riusciremo a ottenere ancora un altro. Grazie, arrivederci, a presto. È sempre un piacere. Ciao, arrivederci. Un abbraccio forte. E guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Allora, devo dirti una cosa, caro Parenzo, c'è una notizia clamorosa che viene da Crema, e viene in realtà dal Vaticano, non da Crema. È il caso di Don Inzoli. Caso di Don Inzoli è il prete che è accusato, anzi è stato praticamente condannato dal Vaticano per pedofilia, per abusi nei confronti dei minori. Siamo più chiari, siamo più precisi. Abusi nei confronti di minori, questo ha deciso il Vaticano nero su bianco. Ti voglio leggere nei confronti di Don Inzoli quello che ha scritto, lo ripeto per l'ennesima volta, la diocesi di Crema, il 12 giugno del 2014, in considerazione della gravità dei comportamenti e del conseguente scandalo provocato da abusi su minori, Don Inzoli è invitato a una vita di preghiera e di umile riservatezza come segni di conversione e di penitenza. E poi c'è l'elenco di tutte le cose che Don Inzoli non può più fare. E tra l'altro, per almeno 5 anni deve fare un'adeguata psicoterapia per 5 anni. Questo Don Inzoli dunque ha fatto degli abusi sui minori. Ora, la cosa clamorosa che viene fuori da Crema è che il Vaticano non collabora con il pubblico ministero. Cioè è stata respinta, è stato messo in segreto di Stato Vaticano, è stata respinta la rogatoria per avere gli atti riguardanti quello che la Santa Sede aveva accertato sul prete vicino a Comunione Liberazione. Io dico che è una vergogna assoluta. Ma cioè, Papa Francesco, no, ma è Papa Francesco che l'ha fatta, è il Vaticano che ha negato la rogatoria. Secondo me non lo sa. Ma come non lo sa? Lo sa benissimo Papa Francesco. Appena lo scopre la vergogna, quello toglie tutto, la vergogna è che Papa Francesco, considerato il Papa progressista, eccetera, eccetera, blocca la richiesta da parte della magistratura italiana di avere i fascicoli riguardanti un prete pedofilo. Secondo me lo sbloccherà. Un prete che ha abusato dei minori, Don Inzoli, è una vergogna assoluta. Certo. E bisogna che qualcuno si mobiliti, perché il Vaticano la deve finire di rompere i coglioni. Se questo Don Inzoli ha commesso degli abusi nei confronti di minori sul territorio italiano, va giudicato non dal Vaticano, che lo lascia libero di andare ai convegni e di fare il cazzo che vuole, va giudicato dalla giustizia italiana, dai tribunali italiani. Certo. Il signor certo. Don Inzoli, chiaro? Noi abbiamo provato a chiamarlo, ti ricordi, qualche tempo fa col Papa, no? Per quanto riguarda invece il tuo caso, la Chiesa lo sai, ha deciso, ma noi non abbiamo mai parlato. Ci sono delle indagini in corso. Tu ti senti colpevole? Hai fatto qualche cosa ai bambini? Ma Santità, lei ha visto e lei lo sa. I bambini, io devo sapere la verità, e voglio sapere esattamente, Don Mauro, la verità. Santità, lei ha conosciuto perché ha visto la documentazione e lei lo sa, per cui è lei che mi ha... Sì, ma io voglio sentire direttamente dalle tue parole le cose. Le carte sono carte, io voglio sentire dalla tua voce la verità. Pronto, Don Mauro? Pronto? Tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente. Sentirete molte notizie questa sera sulla estradizione di Battisti. Noi non ci illudiamo, è stato negato il rinnovo del visto, rischia l'espulsione, il giudice dice che dovrebbe andare in Messico, in Francia, i due paesi dai quali proviene Battisti. Noi non ci illudiamo, non avverrà, ve lo dico io, ve lo posso certificare al 100%, non avverrà. Questo non avverrà. Battisti resterà in Brasile. Dunque, l'unica opzione possibile, io l'ho sempre detto, se noi fossimo un paese normale, ma non lo siamo, se noi fossimo un paese serio e non lo siamo, è quello di andare a pizzi. Adesso che il Brasile, diciamo, è anche più debole, non ci sono più quei rapporti di forza che c'erano qualche anno fa, andiamocela a prendere una bella operazione coperta, come facevano gli israeliani, come hanno fatto e continuano a fare gli israeliani, andiamocela a prendere, tanto non ci dice niente nessuno, non vi preoccupate, non ci dice nulla nessuno, andiamocela a prendere e portiamolo in Italia, su, dai, forza! Allora, Nazareno Milano, signor Nazareno, che non è il patto del Nazareno e non no. Credo che... magari le dà pure fastidio a lei essere avvicinato, no? Nazareno, ti dà fastidio essere sempre citato di continuo da un anno e mezzo, no? No, assolutamente no. Facci sentire però, dai. Sì, ecco, anche quando poi quando vado a lavoro con qua il patto del Nazareno, io... Nazareno, non sento, o ti togli l'auricolare, togli qualcosa, dai, forza. No, non ho niente, ascolti. Dimmi. Io volevo dire qualcosa a Parenzo, perché tutte le sere che lo sento sostenere i Rom, mi sono stancato, ho deciso di telefonare, di dire la mia... Ma io non sostengo. Vai, dimmi, Nazareno, vai. Sì, allora, il discorso è questo, che i Rom, praticamente, è un'etnia che hanno una mentalità, no? Una mentalità. Se Parenzo dice che loro tra loro ci sono delle persone brave che lavorano, eccetera, allora anche è come sostenere il nazismo. Anche il nazismo aveva delle persone brave. Ma lei è normale? Dice no, però il paragone non è sbagliato. È un'idiozia assoluta. No, ma non vuole dire che sono come i nazisti. Sta dicendo un'altra cosa. Va già a dire. Ma scusa. Avevo paura di non farmi capire. Ma lei no, no, ma ho capito. Ma mi sembra talmente un'idiozia anche logica che non ha nessun. È un paragone stupido. Proprio. No, sta perché dicendo già il fatto che un nazista sia nazista lo rende ma tale, anche, per ma che me. Vuol dire? Ma tutti i tedeschi erano nazisti all'epoca, il 90% dei tedeschi erano nazisti, ho capito, ma il 90% gente normale che dopo è sopravvissuta. E infatti la Germania, tutti eliminati. I cittadini normali che erano nazisti, eliminati. Tutti eliminati. Infatti la Germania con quella storia ha fatto talmente i conti che ha introdotto reati. Vuoi rispondere all'ascoltatore però? È una stupidaggine che va bene per neanche dialettica, cioè non c'è neanche una logica. Cosa devi discutere? Che volevi dire, Nazareno? Che vuol dire? Che cosa devo discutere con questo? Hai una stupidaggine. Un'ideologia, un loro pensiero, un loro vivere, no? Un loro, cioè secondo te rubano vivono, perché la maggior parte, il 90% vivono, vogliono vivere in queste baracche, se possono rubano, te vivono di insomma voglia di lavorare, saltami addosso e lavorate voi che io non posso, dicono. Però Parenzo, queste cose qui sono talmente radicate. Guarda che in qualsiasi sobborgo di città, quando prima avete il riso, c'era un... Io penso che gli italiani io penso, non sono la parola penso, però. Purché insomma ognuno di noi facciamo la nostra parte per stare. Va bene, ho capito, Nazareno, ciao Marco, sempre Milano. Ho capito, Marco Milano, vai, mamma mia, che è? Marco, vai. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Ciao. Ma volevo dire, mi è piaciuto molto l'intervento di questa signora che ho sentito all'inizio, se ho capito bene, posso sbagliare, il rappresentante dei Rom, sì, che ce l'aveva con Bonanno, con la Lega. Ho notato da come parlava, credo un po' tutti gli ascoltatori come me, cultura, intelligenza, intelligenza, capacità di esporre il problema, ma sono curioso però, cioè dove vive questa signora? Vive in una casa con un figlio. Sì. Ecco, allora il problema è... È un'eccezione, Esatto. Diciamolo chiaramente. Allora, vive in una casa con un figlio. Noi probabilmente sbagliamo, però... Parezzo, siamo abituati a pensare ai rom come persone che vivono nelle roulotte, sì, che certo. Si spostano. Beh, la maggior parte vivono nelle roulotte. La maggior parte, esatto, è così, certo. Esatto, e che vivono fuori. Certo. Allora, la differenza è una questione sociale da risolvere, non c'è dubbio. Ma non vogliono andare nelle casse, non c'è dubbio. Scusatemi, sta nell'integrazione che signora ha. Fatto, ha raggiunto, per cui io sarei felice. Certo, ha raggiunto senza bisogno di aiuti, tra l'altro, perché avevo un mestiere, No, magari aveva anche, allora, come dire, una famiglia alle spalle diversa da altre. Vorrei avere, Parenzo, mi contano queste cose. Vorrei averla come vicino di casa questa signora, ma anzi mi farebbe piacere anche parlarci, ma non in Roma. E le racconto un episodio per capire come gli italiani, come noi, quelli qualunque considerano i rom, per un anno e mezzo in una vicino Milano, in una zona normalissima, perché ci sono tante in Italia. D'accordo per un anno questo. E mezzo. Aspetta, si è cercato di allontanare dei rom che con roulotte tutte le mattine venivano poi in un modo o nell'altro allontanati e ritornavano. Avevano una gallina al guinzaglio una volta, le sere d'estate facevano il barbecue, ma Parenza, è una battuta ovviamente. Lei non abitava in qualcuna di quelle case, non le vedeva quelle persone cosa facevano e come vivevano. Per un anno e mezzo invece io quelle persone le ho incrociate ed erano disperate, non sapevano cosa fare e come risolvere il problema. Ho parlato personalmente con la polizia per capire e mi hanno detto che quando hanno le gomme a posto, quando hanno il libretto di circolazione, quando pagano l'assicurazione, non gli si può fare nulla. Per cui loro andavano e poi ritornavano, dicevano che solo se si poteva dimostrare che stazionavano, per cui avevano fuori pane, avevano fuori l'esraio, come capitava, potevano essere allontanati. Beh, voglio dire, il problema è chiaro, la distinzione è chiaro tra quella signora che si è integrata e chi non si integra. Non c'è dubbio. Punto. Bene, Adriano da Roma, vai Adriano. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Senti, a me dà fastidio, mi manda al manicomio il fatto che si passa per razzisti quando razzisti non lo si è. A chi ti riferisci? A tutti. A buon anno, a chi? No, perché Buonanno ha detto una cosa magari pure pesante, magari tu hai detto in un altro modo. Lo dovrei dire in un altro modo, però la sostanza è quella: se Parenzo chiede a 10 persone cosa pensano degli zingari, 9 persone li vorrebbero allontanare perché non sopportano più il loro modo di vivere. E qua non è una questione di razzismo, perché sennò altrimenti allora succederebbero sempre problemi che c'è modo di dire le cose, con ma... gli egiziani, eh? No, a parte che c'è modo e modo di dire le cose, perché un conto è dire vogliamo risolvere il problema dei campi rom, che è la cosa che vorrei fare anch'io. Altra cosa è dire feccia in su, altra cosa è quella. Esatto, è una distinzione talmente banale che mi vergogno di averla anche detta, perché è di una stupidità quel che ho detto. Hai ragione, è stato pesante il modo di dire. Però è di questo che stiamo parlando. È vero, però il problema è un altro. No. Il problema è un altro. È che se allora loro se cercassero le case come fanno gli egiziani, i rumeni che vengono a lavorare in Italia, se facessero tutto quello che fanno gli altri, voglio dirle un'altra cosa. Se lei va in una qualsiasi periferia, ma ha ragione, certo che ha ragione. Ha ragione, certo. E dico che ha ragione, ovvio. Aspetta, scusa, fammi finire. E il governo li chiudesse in dei campi rom, allora avresti ragione tu. Perché il governo è cattivo che li chiude nei campi e allora è giusto, è una vergogna i campi, ma sono loro che vogliono vivere così. I campi certe volte vengono consegnati lindi e pinti e dopo un mese vedi che c'è mondezza ovunque. Parenzo, abbiamo anche una rettifica da parte della signora Vanoni, che è stata intercettata dalla mitica Marta Cagnola, alla quale le ha rivolto gentilmente, non come noi, alcune domande ha risposto Cagnola, tranquillamente. Prima però volevo far ascoltare questo pezzo che è l'altra metà di Bellasio, o viceversa, no? Sì, assolutamente, viceversa. Però la signora Vanoni Cagnola. Abbiamo ritrovato la signora Vanoni. Intervistiamo la signora Cagnola invece. È più interessante della Vanoni. Senti questa roba qua della Vanoni, questo pezzo inedito che vi facciamo sentire su Napoli, perché poi in realtà uno può smentire, però quando ci sono pure le canzoni che insultano i napoletani, dai su. E cosa c'è? C'è che i napoletani vogliono Vanoni chiarisce, rettifica, si fa sempre quando si fa una figura di palta, quando si dicono certe cose, poi il giorno dopo uno dice no, non volevo dire. Quando ho detto figlio di puttana, sono stata, io sorridevo, era nel senso di dire che sono furbi, le pensano tutte, che sono spiritosi, ho detto un po' come i brasiliani, non era un insulto, era un gioco, perché se io dico a Mattano sei un figlio di puttana, cioè, può darsi, potevo dire figlio di 'ndrocchia, era meglio. Beh, insomma, figlio di 'ndrocchia o figlio di puttana, bisogna decidere, bisogna vedere ovviamente sempre il tono con cui lo si dice, e la furbizia poi ancora? Amo Napoli, mi piace questa città, la trovo forte, dura, difficile, mi piace nel bene e nel male. Vabbè, vabbè, vabbè. Abbiamo con noi, caro David, sì? David, tu sai che cosa sta succedendo a Padova in questo momento? Come no, c'è un signore che credo sia che il sindaco, Tonci. Non l'ho mai incontrato io, non ci ho mai avuto il piacere di incontrarlo, non mi ha voluto mai incontrare, sia appunto credo Bitonci, mi sì, pare. Sì, è il tuo sindaco, il sindaco della tua città d'origine. No, perché io vivo a Roma. Vabbè, però uguale, la tua città dove sei nato, il sindaco è Bitonci. Io vivo a Roma, il mio sindaco è Marino, però vuole la vuoi incredibilmente, cambierà, vuole incredibilmente multare, esatto, clienti e prostitute. No, questo che mi colpisce è le prostitute, cioè togliere l'incasso alle prostitute, è una cosa di una cattiveria, di una brutalità. No, ma soprattutto, ma al di là della brutalità, inaudita, a parte devo vedere solo, i vigili, giusto? Li voglio vedere i vigili che vanno lì a prendere l'incasso alla prostituta, li voglio proprio vedere, perché qualche volta vengono emanati dei provvedimenti che sono totalmente inapplicabili, che li voglio vedere i signori vigili urbani che vanno lì, scusi signora prostituta, mi dà per favore l'incasso, mi dà i soldi dell'incasso, che fa, ruba nel portafoglio, ho detto no, non ti do il portafoglio. Allora che cosa ti devo consegnare per forza il portafoglio? Ti devo consegnare i soldi che c'ho dietro? No, non te li do, sono miei, me li hanno regalati. Ma per parlare di questa roba qui, chi abbiamo chiamato noi? Beh, una storica prostituta di Padova. Ah, figurati. Una di quelle storiche che molte persone conoscono. Fa la prostituta, diciamo un po' meno adesso, però fa comunque la prostituta. È una transessuale, se non sbaglio, di origini brasiliane, forse, mi dicono. Si chiama Crystal. Signora Crystal, buonasera, buonasera. Buonasera. Ciao, come stai? Come stai? Bene. Quanti anni hai? Bene. Quanti anni hai, Crystal? Sono sui 40. 40 anni, ma ho sbagliato, sei trans? Sì. Sei trans, ma fai ancora la prostituta a 40 anni? Sì. Part-time. Beh, siamo al top, Part-time. Che vuol dire part-time, Crystal? Quando le va? Ho altre occupazioni. Che fai nel frattempo? Si può dire quello che fai oppure meglio non dirlo? Meglio di no. Meglio di no. È legale però. Beh, no, tutto, sì, tutto normale. Quello che fa, dico il resto. Beh, se che fa? Che ti dice, no, che faccio le rapine a mano armata. Ma magari dice, no, non è legale. Senti, Crystal, ma hai sentito questa cosa di Bitonci che vuole fregarvi l'incasso, no? Sì, sì, sì, ho sentito questa medesima puttanata. Una puttanata, la consideri pure tu. Sì, detto come lei, dire, no, detto ma da te, da che fai sostanzialmente la puttana, mi pare una cosa ottima, esatto, stupenda. Senti, Crystal, perché una puttanata? Spiegami un attimo. È una puttanata perché intanto secondo me è una cosa impraticabile, una cosa infattibile, un furto. Un furto, certo. Un furto. Come prima cosa. Seconda cosa, io auguro veramente a questi vigili di non trovarsi davanti una prostituta alta 2 metri, più tacchi come me, perché se mi mettono le mani nel portafoglio li ammazzo, li accoppo. Bravo, forse bravo. Questo è un po' no, no, ha ragione Crystal, ha ragione Crystal, ha ragione Crystal. Letteralmente, li accoppi. Cioè, se forse mi mettono le mani addosso. Questo. No, ma che troppo, ha ragione. Se uno ti mette le mani addosso e ti vuole rubare il portafoglio, tu non reagisci. Ho ragione, Crystal, scusami. Appunto. Spiegami una cosa, dunque poi? Poi io mi domando, intanto speriamo che questa cosa veramente finisca come tutte le altre storie della politica italiana, sì, che appena un altro cane azzana il bambino si smette di parlare, perché se questa cosa va a finire in Europa, dopo che ci hanno riso dietro per via di Berlusconi, dopo che ci hanno riso dietro per via di tutti gli altri politici che non fanno altro che farci ridere dietro, Ok, speriamo che non ci sia anche questa pagliacciata. Senti, ma non voi... capisco, non ci sono dei politici con i coglioni. La Merlin, una donna, ha avuto i coglioni di chiudere le case. Sì. Ok. E la stessa cosa dovrebbero avere i politici nel riaprirle, dici? Dopo di lei non è mai più venuto fuori qualcuno con le palle per prendersi la briga almeno di riaprirle. Brava, dovrebbero avere i coglioni. Tu di coglioni te ne intendi, insomma, adesso così. Una battuta facile, devo dire, una battuta molto facile. Senti, ma tu che cosa fai di mestiere? Cioè, non c'hai un pappone dietro, lo fai per guadagni da sola, dai soldi a qualcuno? No, non ce l'avevo fino a questa trovata di Bitonce, perché da adesso in avanti ce l'ho, perché se io vado a prostituirmi e poi arriva qualcuno e mi prende i soldi, passo ad avere dei papponi. Cioè, è meglio a questo punto avere dei papponi, almeno mi proteggono, dici tu. No? Prima non ce l'avevo. Ci sono anche prostitute libere, sì. Ok? Per le prostitute che non sono libere ci sono delle altre leggi altamente costituzionali che prevedono, sì, che danno alla forza dell'ordine, certo, il modo di intervenire sulla schiavitù, certo. Ok, loro fanno cosa? Tirano fuori delle cose che vanno a danneggiare solo la prostituta italiana, solo la prostituta che è in regola, perché quelle che non sono in regola comunque la multa non la pagano, comunque i soldi non li danno perché il pappone se li prende ancora prima che il cliente. Quindi meglio multare i clienti, appunto. No, che multare i clienti? Lo sai che Parenzo credeva. Sono, vedi, quei palliativi. Meglio inutili. Multare i clienti, vedi, mi dà ragione. No, non serve a niente multare i parenti. Meglio coprire i buchi sulle strade. Fatto a prescindere, meglio, insomma, fare il sindaco, risolvere i problemi per cui quel cretino è stato messo là. Bitonci, sì. Signor perché? Bitonci, come lo giudichi, signor Bitonci, tu un cretino? Scusa, intanto Padova è un mortorio, perché neanche le prostitute non ci sono più. Perché? Perché è un mortorio, dici? Non ce ne sono più, hanno chiuso tutti i locali, la vita notturna a Padova è finita. Cioè, guadagnate di meno, dici tu? Non ce ne sono più. Non c'è più nessuno. Non è che però la qualità di una città si giudica dal numero di prostitute che c'è. Anche la vita, la vita. Questa non è esattamente così, però. Senti, Cristal, ma tu come consideri il tuo lavoro? Un servizio? Intanto non un reato. Non un reato, quello manco adesso è un reato intanto, in realtà. Sì. Esatto, non un reato. E anche sì un servizio, perché comunque noi andiamo con persone maggiorenni, consapevoli. Certo. Hai capito? Che altrimenti chissà cosa farebbero. Che cosa fanno? Sfogarsi. Che fanno? Ma da te chi vengono, per esempio? Persone che altrimenti non scoprirebbero da un'altra parte? Persone... Guarda, questa trovata... di Bitonci mi dà tanto da quella cosa, non voglio la prostituta nel mio comune perché io comunque non me la scopo nel mio paese, vado nel paese vicino. Sì. Brava, lo sai che Crystal è molto più intelligente di molti politici italiani. Ma te lo posso te lo posso certificare. Crystal, transessuale brasiliano, da quanti anni sta in Italia, Crystal? Da 27 anni sono cittadina italiana, sono residente a Padova. Ma perché sei venuta qua, hai fatto subito la prostituta? No, ho fatto anche altri lavori. Hai fatto anche altri lavori, Senti, ma sono ancora molto richieste transessuali? Sempre di più. Ma che tipo di clienti vengono da te? Tutte le classi sociali? Tutte le classi sociali? Non c'è una tipologia. Pure politici? Li abbiamo visti, il caso Marazzo. No, a parte Marazzo, ma vengono politici anche leghisti? Il caso anche politici è stato leghisti. Un caso evidente. Anche politici leghisti vengono da te? Guarda, sono maschi anche loro, E che ne so, magari... E a questo punto mi viene anche da ricredere sulla loro maschilità, perché? Con queste coglionate, con queste trovate non da uomini, perché un uomo non si permetterebbe mai di tirare fuori l'idea di mettere le mani nelle borse di una donna, sia prostituta, casalinga. Ha ragione Crystal, io vorrei abbracciare Crystal fortissimo, perché in realtà è veramente molto più avanti dei politici italiani. Vuole la legalizzazione della prostituzione. Sì, ma multare i clienti. Vabbè, multare, non ha detto molto, sei fissato con questo multare i clienti. Questo è importante. Ma ti pare possibile che Crystal vuole multare i clienti? Beh, ha detto che al limite è meglio. Ma multarli perché? Ma infatti infatti, diglielo. Molta alle perché c'è lo sfruttamento per alcune donne. Senti, non ma per che te. Richieste ti fanno i clienti? Dimmi una cosa. Lo sfruttamento è un'altra cosa. Bravo, bravo, bravo. Che va risolto bravo, in un'altra bravo. Maniera, comunque non multando i clienti, perché non risolve a niente. Io, come ho detto in passato, continuo a dire che se il papone è abituato ad avere 500 euro e prima la prostituta ci metteva una notte a farli, adesso loro sono fuori notte e giorno perché il papone non cambia il suo stile di vita. Ma hai capito, allora, Parenzo? Dai, anziché andare a rincorrere la prostituta, bisogna rincorrere al papone se il problema è quello. Ma sì, certo, ma se devi andare a rompere i coglioni a qualcuno, vai a rompere i coglioni al papone, non andare a rompere i coglioni alle persone che lavorano normalmente. Dai, su. Senti, Cristian. Ma il papone scappa, però la prostituta è ferma. Ma chi sono quelle in strada che non ti piacciono? Quelle che stanno, che battono, che non ti piacciono, di altre nazionalità? Quelle. No, guarda, a me non, assolutamente non mi permetterei di dire che una nazionalità specifica non mi piace, però, perché una nazionalità è composta da tante persone. Però, a me non piace che la polizia, che la legge italiana permetta che ci siano donne ancora nel 2015, indipendente dalla nazionalità, sfruttate su marciapiede o minorenni su marciapiede. Vabbè, quello tutti, che c'entra? Tutti. È solo quello. Poi ben venga la slava, la rumena, la marocchina, poi è il cliente che sceglie. Ma il cliente che richieste ti fa, caro Crystal? Cara Crystal? Di tutto. Di tutto, di tutto. Ma tu sei anche sia attivo che passivo, che sei? Completa. Ma anche di leggere un libro insieme? No, non credo che ti leggo. So, qualcuno ti fa delle richieste strane, sì, leggere un libro si vuole confessare oppure sesso e basta, Crystal? No, guarda che c'è tanta anche richiesta di leggere libri. Di stare insieme un po'. Vedi? Vabbè, dai, però. Certo. Quello. C'è anche un lato umano. Che ovviamente noi finché siamo emarginati in questo modo nessuno ci crede. Io però ti vorrei chiedere un'ultima cosa, caro Crystal. Se ti trovi di fronte un vigile urbano che ti chiede l'incasso della giornata, la tua reazione qual è? Se mi fa un pompino gli do l'incasso. Siamo al top, Questo ma perché? Perché, scusa, io Crystal, non lo faccio per prendere i soldi, anche lui me lo devi fare per avere i miei soldi. Adesso faccio la battuta, guarda, io quello strano, che dico è che bisogna ignorare queste trovate. Noi siamo stanche di essere prese come jolly. Ogni volta che i politici non fanno un cazzo, che la gente si lamenta un pochettino, si tira fuori la prostituta, perché la prostituta fa pubblicità, la prostituta fa vedere, mette in evidenza questi coglioni che lavorano, ma in realtà, ragazzi, svegliatevi, perché loro non sono messi là per queste puttanate, ma per risolvere i veri problemi della città. Oh, applauso, Crystal! Traffico, piena di traffico e di altri problemi. Vabbè, la droga, allora, lo spaccio è un reato. A Padova si trova più facile la droga che non il pane. Bravo Crystal, applausi a Crystal, applausi. E allora, questa è una cosa da risolvere. Va bene, sei meglio dei politici. Ciao Crystal, diglielo pure tu a Bitonci, vai. Ciao, caro, come cavolo ti chiami? Giovanni Ragusa, vai. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Buonasera Parenzo. Allora, io volevo intervenire a proposito di Ornella Vanon e delle sue parole troppo carine, diciamo, verso i napoletani. E a sentire mio padre, adorava Ornella Vanon, i napoletani in Napoli negli anni 60. Vabbè, ma ha detto che sono dei furbastri, che sono dei furbastri, sì, dei figli 60, di puttana. No. Ha detto queste cose qui, che è come dire che a Napoli rubano 60. Un po'. A Napoli bisogna stare attenti, per carità, le ha detto in maniera sgradevole. La cosa assurda è che torni indietro. Negli anni 60, Cruciani, negli anni 60 Ornella Vanon ha vinto addirittura il Festival di Napoli. Ma che ti devo dire io, Giovanni? Digliela lei, digliela signora Ornella Vanoni, non è che me lo ma puoi dire a me. Ma questo cambiamento? Ma è che ne so, l'età. Ciao, a domani 18:30. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglione. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io le voglio bene, la perdono. Radio 24. La passione si sente.